160. Secondo me lui, a meno che non voleva andare direttamente a comprare una nuova, che avrebbe fatto un po' di telefonate a tutti i principali negozi, per dire da Cagliari, che sta a Cagliari, quei negozi di componenti elettronici, se ce l'hanno rimasta qualcuno in magazzino, perché a Grassi l'ha chiesta, non c'è se non mai richiedere Roma o Genova, diciamo quelli, le città più grandi, Milano è fatto la mandare direttamente, si spendono 15 euro di trasporto, o se no vai direttamente con i distributori ufficiali e ti prendi questa nuova che è uscita, o se no un'altra opportunità, ti provi una di queste Game Master, quelle che fa Luca Flipper o gente del genere, la provi e vedi come va, se ti va bene ti metti d'accordo, ce l'hai qua a Sassari e te la tieni. Io non capisco una cosa, Riccardi, ti abbassi di segnale la sera, cioè durante la giornata stai benissimo, poi la sera ti abbassi, ti sei abbassato anche di radio, adesso sei Santiago 7, da 9 sei sceso a 7, ma c'è un cavo che non funziona bene, c'hai qualcosa che non va, perché è strano questo fatto qua, è impossibile che cambi così tanto il segnale. È una campetta apparecchio, dite a me che preso con tutti, buonasera. E a Eugenio no, però è bene, allora già sei vivo tu. Una voce a Eugenio, piano, tranquillo. Ma non c'hanno più niente Antonio, avanti chi tocca per salutare all'amico di Porto Torres, il grande Eugenio motociclista. Ciao Eugenio, buonasera a tutti, ciao Robert, ti voglio bene. Grazie per il grande. Ciao Eugenio, beh, mi senti? Ciao Lu, buonasera, come sempre, bello, sempre prepotente, anzi da oggi dico la modulazione ignorante, di quelle belle ignoranti, sì, ti sei tagliato. Dai, anche ci stai andando benissimo, dai. Riccardo, io che non lo sento, basso. E ok, sì, ciao, buonasera anche a te, dimmi tutto. Ma il 3009 che hai tu cos'è? Di quelli cromati, Sì, di quelli cromati, sì. Quanto l'avevi pagato? Perché a me mi interessa, a me piace quella farina. Guarda, ce l'ho proprio qua lo scontrino. Aspetta un attimo, Io mi libro e te lo porti via, già, Lucia, senza neanche potenza. Siamo in due, allora, già. Io quello là l'ho visto quando ho tomato la foto, però il bip non si può levare, non c'è molto di base, ma trovi quello e leva il bip, e non lo puoi buggare. Se lo tieni, perché cazzo io non ce l'ho il bip, lo lascio sempre. Non so, ma lo vuoi, non lo puoi levare però. Sì, quello sì. Luca, guardati Superstar 4009 e poi mi dici se ne hai mai visto di mese. Allora, già, dimmi. Guarda, ho qua la fattura davanti, nuova, 186. 186, quello lì è quello omologato, vero? Sì, dietro il marchiato c'è. Che appagato. È un lapparicchio, ma qua la radio non gli ha fatto nulla, non l'era aumentata, non dici niente. No, questo è, guarda, ho ancora la pellicola su, no, non mai le ha fatto niente, è limpido. Eugenio, ma ci può levare il bip? No, qua non c'ho niente per levare il bip, no, non si può levare, non credo. Ho capito, vabbè, comunque già è carino, bello. Io l'ho visto a 178 spedito. E io l'ho preso da, come si chiamava, Radio Spitzer, negozio Radio Spitzer. Oggi qua sta chiamando Riccardino, lo senti? Riccardino c'è. Attento, l'amico mio Riccardino. Sta parlando? Ti ho detto, ciao, oggi non se mi senti. No. Nada, niente, oggi niente, come mai? E a me mi copi, caro? Assumi l'amico mio Marcolì, oggi. E allora Marcolì, cosa stai cucinando di buono? Cucinando niente, c'era una zuppa Knorr di legumi, ho aperto il barattolo, l'ho intiepidita, ecco ho fatto il pranzo. Ah, il pranzo, no, la cena? Certo, pranzo. Noi abbiamo gusti esotici, robe. Aspetta, ma è tutto che ti trattieni fino a l'una e mezzo di notte? Lo sai che il signore, Ruggeri, fino a l'una e mezza lui, parlando. Lui lo può fare. Non ha pensiero di alzarsi questa mattina. Dorme durante il giorno e la notte lavora alla radio. piccata me l'ho compreso. E per quello lo chiamiamo rata pignata. Dovevi fare, no Marco Condo, Marco Pipistrello. Pignara, pignara. O pignara, boh, come si dice, non lo so. Tradotto Pipistrello, l'angherese. Pipistrello è quello che faceva la fine da cosa, la zizzola, l'avete conosciuto? Oh, questo ci sarà cosa. Via, via. Sì, c'è la tizia e Sassi, me lo ricordo. Adesso lì fanno la spaghetteria, c'è. No, la fanno ancora la fine, c'è ancora. E poi compra, è più cara di un ristorante. Due pezzi di pane e 8 euro l'altra volta che sono. Sassu. Sassu, cioè spaghetteria è più fatta la fine. Sono due locali, una fra. No, ma Tizio non c'è più. Vabbè, io ho detto zitto, Sassu, dai. Sassu già lo so. Già lo so, sì, perché siamo andati con Stefano una volta a mangiare. È tenato, appena, ci siamo seduti, abbiamo pagato un sacco di soldi. Appena, proprio non c'era problema che ti nauseassi. Quando io sono andato, pensavo fosse l'assaggio che magari poi te la portano a coso piena. Un piatto normale, l'ho mangiata e stavo aspettando la trafane. E avete finito? Come avete finito? Come ho commentato? 8 euro ogni piatto. Via, così, come ti siedi così? Come ne comprarla? Io la compro, sai dove? In via Nurra, da Carrupira, che la pompa è buona, che è nipote di Tizio. Ma niente a che vedere con quella che fa Antonio qua a San Donato. La più buona che vede è i nocchi, è buco. Confermo Natalino, San Donato non ha guarda. E la fai che genovese a Porto. Infatti, se riapre io me la compro vita Antonio. E cosa gli fa musica? La chiesa? Il televisore c'è acceso, grazie. Mi ha concesso. Sembra che stavi ascoltando la messa, cos'era? Questa è la musica dell'organo quando fanno le musiche. Sempre a tutto il volume, c'è la cavolo del così. E oggi tu a cosa trovi? Dove la prendi? Quella all'inizio troppo di granai? Sì, la fai se non fece, ne è solo una ed è la migliore. C'è... Sì, troppo di granai, sì, troppo di granai. Mi suggerisce mia moglie qua, si assiste dalla sala, io so chi no. Dopo i granai, sì. Di fronte a quei cinesi, con il negozio di cinesi, dai. Dove si mette all'inizio con le bancare dei sangari? Ehi, da Belmonte, sì. Sì, sempre lì. Poi vabbè, lo conosco. Vabbè, una vita è là qua. Fa buonissimo. Sì, è buona, già l'ho assaggiata anche io. Ok, Ricardi, riprenditi il mic e facci sognare anche tua madre. Mi faccio sognare. Bene, adesso mi sento meglio con il diporo. Sì, ma la cosa strana è che a certi momenti con il diporo ti sento più basso, adesso ti sento più forte. Io non ho ancora capito le tue posizioni di trasmissione. Con il diporo normalmente eri più basso, oggi invece sei più alto con il diporo e più basso con l'antenna. Come l'ascoltate voi, Ricardi? Riccardi, buonasera, manco male, adesso lo sento. Ma perché poco fa la stavi usando? Prima stavo usando la Grand Plane, e adesso hai fatto il senso. Ciao, Ciao Riccardi, ciao, adesso ti sento. Prima con l'antenna non ti sentivo, col di poco fai molto meglio. Ok, deve essere stato verso la direzione. Ma non è che stai confondendo, che tu sei convinto che stai usando il diporo e invece sei con la Grand Prix, Enrica? No, qua 9-10, Roberto. La radio è perfetta. Ma 9, infatti, ma normalmente con il diporo era più basso, con la Grand Prix mi arrivava a 9 più 10, invece adesso oggi è il contrario. Non lo ascolto, Riccardi. Non ascolti Natale. Incomprensibile. Sento che sta parlando ma non capisco quello che dice. Peggio di andare al buio. Ma mi sembra strano. Boh, e tu già l'ascolti bene oggi a Riccardo? A voglia, adesso sì. Segnale non è altissimo, però la radio è proprio bella limpida, tranquilla. Lo sento alla grande. Ehi, dimmi una cosa, ma oggi lavora qua Enrica? A me Riccardo e oggi? Oggi no, no, sono 3 giorni a casa. Perché? Sono da venerdì a casa, perché? Ma le navi stanno arrivando, dico, arrivano comunque. Eh certo, per forza. Perché non hanno mai smesso di arrivare le navi? No, parlavo la Tirrenia, quelli molte volte magari le fermano, non lo so, i giorni di festa, visto che non può andare nessuno a viaggiare. No, assolutamente. Ricordatevi che le navi ricoperte da sovvenzioni statali e regionali viaggiano anche con un passeggero. Devono per forza viaggiare anche vuoti, per forza. Ma così non lo so per cosa. Okay, quindi si possono andare a... Oh, penso che in questi giorni siano bene in perdita. Già il caso di vedo con i soldi che si hanno mangiato tutto l'estate. Ecco, per fare una traversata ti chiedevano delle cifre spaventose. Ultima ora ragazzi, ultima ora. Adesso i prezzi al terreni si abbasseranno, Si abbasseranno perché la sta riprendendo lo Stato. La sta riprendendo lo Stato al terreni. A quello là l'avrei già arrestato, dopo tutti i soldi che ha sperperato e che si è mangiato e ha approfittato di tutte le persone. Ecco, prezzi, chiudo l'aereo, cioè ti costava il doppio che andare in aereo, cioè tu per andare a Roma Alghero paghi 144 euro andata e ritorno, prova ad andare in coso, a Genova, a Porto Torres, cosa ti costa? In passaggio ponte oppure in Cuccetta? A Giuma ti costa di più? Era tutto bloccato, gli hanno bloccato tutto, ha venduto anche la società di rimorchiatori, insomma incasinati. Vabbè, lui chissà dove ci dia i soldi, però è bandito anche dai concorsi per partecipare alle sovvenzioni statali, non può più partecipare a niente. E adesso cioè, si fa una nuova società con un altro nome e torna a capo. Sono così, sono degli avventurieri queste persone, sono fatte per mangiare, è tutto pilotato. Ora ti credi che lui l'abbia fatto, che non l'abbia fatto con ti pare che fallisce la Tirrenia, è tutto pilotato. Lui adesso si è raccolto tutti i debiti, si arrangiano, se li grattano gli altri, perché lui si risulta fallito. Lui con un altro nome si fa una nuova società, che Tirrenia si chiama Nuova Tirrenia, e vedi che lui torna a andare. Non lo so perché ci sono le banche in me. Gli hanno confiscato tutte le banche, capito? L'Unicredit è una banca americana, che sono quelle che lo hanno appoggiato per comprare la flotta Tirrenia, e oltretutto non gli ha mai restituito su. Gli hanno bloccato, gli stavo vendendo anche di nascosto delle navi, gli hanno bloccato la vendita di due Tirreni, insomma un casino. Ok, e avanti Riccardo, che farà girare per cosa? Per Gianni doppio rumo. Comunque alla fine certo Riccardo, tu dovresti stare sempre così, non devi mai cambiare, tanto è inutile che cambi per uscire più basso. Io ti ascolto bene così, 9.5, Radio 5 è bella. Prima di basso di radio e basso di segnale, Santiago 5 arrivavi, è un bel strano. Poi lì ci vuole solo una buona antenna, vi dovete decidere a piazzare una buona antenna su quel palo. Mi togliete tutti i problemi da quella zona, poi ui, non ce n'è. Ma va bene anche un'antenna come ce l'ho io, per lui va benissimo. Stava sovramodulando. Quella è una mini gran non si vede nulla. La gran pena è buona, la LEM, quella che è radiale 275, quella sì che è buona, arriva a tutte le parti tranquillo con i segnali. Comunque c'era qualcuno che andava a portare qua, avanti, chi è che voleva andare? Chi sei? Sì, Antonio, sei tutto saturo, Santiago 9+5, ma sei tutto saturo. No, ma dove sei? A casa tua? Io non lo so. A casa di chi? Tua sorella? No, tua sorella arrivava a 9+20, sei 9+5, ma tutto un rumore così. Ma era tutto perfetto a tua sorella, 9.25 ieri, 9.20 e 25 arrivava, pulita, perfetta, come mai oggi sei così? Aveva 6.7, perché toccate, lasciate stare quando funziona tutto bene, non bisogna toccare niente. Comunque io sono da stamattina con un altro microfono, Gianni e compagnia, nessuno l'ha notato. E che microfono stai usando? No, sto scendendo bene, roba, se no te la prendete. Questo è il 908 della Duris. Va bene, un bel microfono. diciamo bisogna pensarci, questo spinge che è una bomba, perché c'è un sacco di funzioni, se presente lo sto utilizzando al basso volume e il compressore è in posizione media, se poi sollevo tutto e alzo tutti i controlli spacca tutto, però vabbè è troppo esagerato, perché questo può funzionare con tre apparati in contemporanea, c'ha i commutatori, c'ha un sacco di funzioni, quello c'è 908 già. Non è quello che c'ha i pulsori per aumentare le frequenze? Sì, c'ha l'equalizzatore, poi c'ha il compressore, scusami, dell'equalizzatore c'ha il modulometro, l'up-down, e più c'ha le funzioni VFO, ricerca memoria, eccetera, c'ha altri tasti. No, oggi è bellino, e poi nuovo, ho trovato nuovo in scatola, questo l'aveva comprato, non ho capito poi, perché sono venduto nuovo, cioè è una cosa che tu la togli dalla scatola, con la pellicina, tutto. Non ho capito, prima c'avevo, cos'è il piccolino, questo è 908, mi sembra il 208, 408, quello l'avevo dato. Thank you.